Don't worry, I have a solution for you, sir. In fact, I have 5 solutions. You don't even have to read them. You'll have deniability. I'll take care of everything. You know nothing. No, I need to know what I'm approving. Absolutely. But on the other hand, knowing things is overrated. Anyone can pick something when they know what it is. It takes real leadership to pick something you're clueless about. Okay, I picked 3. Try again. 1. Go higher. 5. Too high. 3. You already said 3. 6. There is no 6. 2. Double it. 4. As you wish, sir. Yeah. Questa notte sono venuti a riprendere Giacomino. Erano oramai 2 mesi che Giacomino stava con me e mi ci ero affezionato. Giacomino ora non mi sorriderà più, seduto sul carrello della mia macchina da scrivere, ma io sono contento lo stesso. È una storia vecchia di 2 mesi, dunque. La mezzanotte era passata da parecchio e io continuavo a raccontare le mie piccole vicende alla macchina da scrivere, che poi le raccontava in blu al foglio bianco. Mi parve, ad un tratto, di sentire un fruscio d'ali fuori dal balcone e interruppi il mio lavoro. Effettivamente era un fruscio d'ali, forse un piccione sperduto. Questo era l'incipit di Giacomino, da Lo Zibaldino di Francesco Guccini. La prima parte si era chiusa con Dead Meadow e la loro I'm Gone, la seconda si è invece aperta con Stephen Malkmus and the Jigs insieme per Baltimore. Prima e seconda parte di quello che è il volume numero 3 di Eclettica. Eclettica che è presente sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni fra le 19 e le 20. E la voce che state sentendo è quella di Giulio Caperdoni. Detto dell'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com e detto del nostro spazio su internet myspace.com/eclettica, vado avanti nell'elencarvi quanto vi siete già ascoltati, ovvero sia Atlas Sound, come sua consuetudine un brano dal titolo sufficientemente lungo, Requiem for All the Lonely Teenagers with Passed Out Moms, per poi esserci ascoltati subito dopo Atlas Sound il pezzo che si è appena chiuso, ovvero sia una novità ma solo per quanto riguarda le playlist di Eclettica, un estratto da un album sul quale cominciavamo a nutrire forti sospetti che fosse un bel album. Sto parlando di Lifers, dei Blood on the Wall, visto che questi sospetti c'erano stati causati dall'ascolto continuo di Junkie Julie. Sospetti che sono stati confermati da Sorry Sorry Sarah, il pezzo che si è appena chiuso, appunto. Invece il pezzo che sta per arrivare è assolutamente morriconiano. Penso che non ci sarà nessuno che potrà smentirmi dopo averlo ascoltato. Riverside è il titolo della canzone, la formazione viene da Birmingham, Alabama, l'album è intitolato The Strangest Call Lights e il loro nome è 13 Ghosts. You've been taken to paradise. Only in dreams can it feel this way. I'll be waiting.

Dopo esserci ascoltati Ravionettes con un estratto da Last Last Last, quello che è il loro ultimo album, un remix di Dead Sound, è la volta dell'ultimo brano per quanto riguarda quest'oggi. Una formazione che viene dalla Svezia, sono un duo, Wild Birds and Peace Drums, e direi che in questo nome cercano di riassumere quella che è la loro proposta musicale. I due, Marian Valentin alla voce e Andreas Verlin invece agli strumenti musicali, basano appunto la loro proposta semplicemente sulla voce di Mariam e sulla batteria di Andreas. A volte in qualche brano c'è un aiuto magari dell'elettronica o l'inserimento di qualche strumento particolare come un sitar o un glockenspiel, ma direi che fondamentalmente è voce e batteria. Wild Birds and Peace Drums, che escono nel 2008 per Leaf Label con Hardcore, dal quale sono andato ad estrarre Doubt Hope. Shoe man is not good enough. Eclettica. Stagione numero 14, settimana numero 16, volume numero 3. Indice. Get Well Soon. Foot Village. Afri Rampo. Dead Meadow. Stephen Malkmus and the Jigs. Atlas Sound. Blood on the Wall. 13 Ghosts. Ravionettes. Wild Birds and Peace Drums. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.